è la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Dai, 21 e 10 minuti primi. Benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Siete all'ascolto degli 87, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Della frequenza romana e laziale. E su tutto il restante globo terracqueo. In streaming. Già trilla questa sera allo 06 49 17 50. In velocità ricordiamo i contatti della radio. Iniziamo dal sito raggiungibile al www.ondarossa.info, sito attraverso il quale rimanere aggiornati con le varie corrispondenze che vengono registrate, i podcast delle trasmissioni, e sito attraverso il quale poter contribuire a questo progetto nato libero nel 1977, senza padrini, senza padroni. Quindi andate a cliccare su Sostieni, sarete indirizzati alla pagina di PayPal. Sottoscrivete con qualche spicciolo. E la radio continua a trasmettere, facile, no? L'email di redazione è ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione è fantasma@ondarossa.info. Quindi contribuite alla trasmissione, passateci i vostri demo, le vostre segnalazioni. Se fate iniziative, insomma, fatecelo sapere, noi siamo qui per voi. Io prima di presentare gli ospiti di questa sera volevo passare un pezzo che abbiamo registrato come al solito in questa trasmissione. Andiamo in giro per concerti con i nostri microfonini ambientali. Questo è un pezzo registrato al Breakfast volume 3 allo ZK Squat il venerdì e sabato scorso. Complimentoni a tutti, è stata una bella iniziativa da paura. Mille gruppi bravissimi, bella atmosfera. Lo ZK, per chi lo conosce, una sicurezza, suoni da paura, a parte le nostre registrazioni. Questo è un pezzo dei Sud Disorder, registrato dal vivo al Breakfast. Ci arriviamo, eh? Eccoli qua, Breakfast a Do It Yourself Invasion. Sempre bella la capitale. Oddio. Sempre alla ricerca costante di un posto nell'immaginario per ognuno di noi. Poi se c'è un posto che non c'è. Come on, come on. insomma, questo era un piccolo assaggio dal Breakfast. Ancora complimenti a tutti, a chi ha organizzato, a chi ha partecipato. Però bando alle ciance, perché questa sera abbiamo ospiti direttamente dagli acquitrini della palude intorno a Latina. Benvenuto Swamp Collective. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Insomma, vogliamo presentare, insomma, a chi ci ascolta, che cos'è lo Swamp Collective. Sì, allora, beh, intanto siamo qui Luca, Valerio, Umberto, ci salutiamo. Per chi ci sta seguendo e chi ci conosce, è strano sentire Radio Swamp da un'altra parte. Ha cambiato pure città, capito? È una cosa. Comunque, il collettivo Swamp nasce 3 anni fa, dopo un'occupazione di tutte le scuole in un periodo abbastanza conflittuale a Latina. E diciamo che vuole riunire un po' tutto quei gruppi che fanno musica indipendente, autoprodotta, che altrimenti non uscirebbero dalla melma della palude. Quindi cerchiamo di fare questo lavoro qui. Speriamo che esce una cosa bella. Speriamo. Speriamo. Insomma, lo Swamp Collective quindi si riunisce con cadenza settimanale? Quando... Sì, in realtà ci riuniamo sempre, cioè è sempre collettivo Swamp. In ogni momento abbiamo sempre un po' testa per la nostra vita privata, un po' per il collettivo Swamp, perché poi è una passione nostra. Diciamo, è pure perché noi, collettivo Swamp, siamo anche un gruppo musicale, quindi è anche per dare voce a noi stessi, quindi non c'è una riunione in particolare. Ma le trasmissioni hanno una cadenza fissa, oppure quando avete pronto qualcosa? Quando abbiamo pronto qualcosa, abbiamo provato a darci una cadenza fissa, ma per un motivo o per un altro, per il fatto che trasmettiamo dalla cameretta del nostro grande amico Suscio. Suscio, salutiamo. Grande Suscio. E quindi facciamo un po' ogni tanto, però quel poco basta per ora. De Cristo. De Cristo va benissimo. Va bene, ma allora, per poter ascoltare Swamp Collective, allora, per poter Radio ascoltare Swamp, come si fa? Radio Swamp, basta seguirci sulla nostra pagina Facebook Swamp Latrina, Swamp_Latrina, e noi quando c'è la puntata mandiamo il link. Comunque siamo su Spreaker, e su spreaker.com/Swamp Latrina ci trovate lì tutti i podcast. Va bene, comunque dopo questa trasmissione posteremo un link, insomma, con la trasmissione. Se non avete avuto modo di ascoltarla, la potrete riascoltare. Ci saranno tutti i dettagli per poter contattare ed ascoltare lo Swamp Collective. Ma a parte, insomma, il fatto di promuovere il vostro gruppo, perché insomma non lo nascondete, è uno dei gruppi underground di Latina. Usate la Swamp Radio per pompare nel mondo digitale le vostre frequenze. Cos'altro fate? Allora, cos'altro facciamo? Cerchiamo di fare un po' di tutto, cioè, perché Latina non è una città proprio che è così piena di roba che tu dici: oh, ma non so dove mettermi, non so che cosa fare. Torniamo sempre al solito discorso. Eh sì, purtroppo. Sì, qual è? Che Latina non è proprio questa bella città in cui vivere. Però noi ci mettiamo del nostro meglio per farla diventare una bella cosa. Quindi creiamo uno spazio vitale, eccolo. Ma a livello di trasmissione siete andati a coprire gruppi del passato, la scena di Latina? Sì. Allora, abbiamo cercato di fare questo sia con la radio, con le trasmissioni online, insomma, su internet, che con la fanzine cartacea, perché abbiamo anche una fanzine che è uscito il numero 0 un paio di anni fa, uscirà prossimamente il nuovo numero, si chiama La Palude, la fanzine. Uh-huh. E cerchiamo di collegare quei gruppi che appartenevano a una scena del passato a Latina, che hanno suonato dappertutto, insomma, che sono stati gruppi vivi, che hanno vissuto proprio le diverse scene sia nazionali che anche europee per alcuni, ai gruppi che invece sono nati da poco e che cercano il loro spazio, e che comunque, perché a Latina è questo il problema, c'è tanta gente che fa musica ma pochi canali su cui questa musica può passare, cioè canali sempre nel discorso, insomma, autoprodotto e indipendente. Quindi noi cerchiamo di essere questo canale per i gruppi nuovi e per i gruppi vecchi, per fare un collegamento, insomma, tra le due. E chi avete intervistato in questi ultimi tre anni? Allora, abbiamo intervistato diverse persone, tra cui una puntata che è anche la potete anche sentire su YouTube, Alessio Sanniti, che salutiamo, dei Misanthropus, ex Scammos Society, eccetera eccetera, insieme a Vincenzo Censi in arte Zivi, che salutiamo anche lui, che gestisce la pagina 1997 Fuga da Latina, se volete andate a seguire anche lui. È una bella pagina antologica, insomma. Fa veramente e non un solo bel che, insomma, fa conoscere e riporta alla luce tutte la tradizione musicale underground di Latina. E quindi abbiamo fatto proprio questa puntata incentrata su che cos'era Latina prima, che gruppi giravano, un po' la storia del punk a Latina tra l'81 e il 97, perché diciamo che quella quel periodo ha vissuto. Quindi l'81, il primo gruppo di Latina, qual è stato? Allora, sempre nel circuito underground. Sì, su questo ci sono diverse voci, diverse scuole di pensiero. Diverse scuole di pensiero, perché poi a Latina a un certo punto funziona così, che siamo sempre in quattro, ma quei quattro hanno fatto otto progetti musicali diversi, quindi poi anche a cercare tutti i gruppi c'è un po' di confusione, però noi siamo partiti, prendendo come spunto questa puntata che abbiamo fatto, siamo partiti con i London 77, che fecero uscire, se non vado errato, tra 81 e 82 il loro primo demo tape, che si chiamava Giustizia, che tra l'altro ho scoperto e fu recensito anche dalla fanzine Teste Tvor, Triste Buole Ossarotte, sì. E quindi siamo partiti da là. Diciamo che questo è il primo gruppo, in realtà non è proprio così, però ecco, per dare un punto iniziale, sennò poi si fa confusione. Insomma, dall'esperienza vostra con la Swamp Radio, che andava appunto a ricercare gruppi del passato però con un occhio sempre all'underground vivo e vegeto del presente, cosa pensate che accomuna i gruppi del passato con i gruppi underground che suonano attualmente a Latina? Beh, guarda, sicuramente l'attitudine a non volersi arrendere di fronte a una città menefreghista, apatica, che quasi come un vortice del nulla che risucchia tutto quanto, e c'è sempre stata questa voglia di, anche se poi molti si sono distaccati, molti hanno lasciato perdere, perché poi non è semplice, no, gestire una cosa così dove tutti ti sono contro, non è semplice da gestire, però è questo che abbiamo notato, l'attitudine di provarci sempre, di resistere di fronte a tutto questo. E sono, diciamo che un po' è una cosa che ci fa piacere aver conosciuto, cioè, questa cosa del passato, perché noi non pensavamo che esistesse una cosa del genere, cioè dei gruppi veramente di un certo spessore che suonavano a Latina. E d'altra parte ci facciamo anche coraggio, cioè, se loro sono riusciti a farcela, allora ce la possiamo fare anche noi, quindi è un resistere collettivo, insomma. No, è resistenza necessaria, perché insomma lo dicevamo a microfoni spenti, non è che ci sono poi così tanti posti dove ascoltare musica indipendente a Latina. No, assolutamente no. Ecco, lo stavamo dicendo prima, ci sono due posti che veramente hanno una bella programmazione musicale, di musica indipendente, autoprodotta, insomma, che non è a Latina non si vede, quindi questi due posti veramente il massimo del supporto da negli anni passati, lo dicevamo sempre prima, le migliori chiacchiere avvengono sempre a microfoni spenti, c'erano un paio di posti occupati e ricordavamo ad Aprilia, insomma, vicino a Latina, il camerillo Brillo. Lo spazio antagonista, che non mi ricordo il nome, quindi se qualcuno che ci sta ascoltando se lo ricorda ci può contattare allo 06 49 1750 e correggerci nelle nostre dicerie. E quindi comunque un po' la Swamp Radio l'abbiamo presentata, ha portato anche una sua programmazione la Swamp Radio. Cominciamo ad ascoltare qualcosa? Cominciamo ad ascoltare qualcosa. Noi sempre mandiamo un bel pezzone. Serve un qualcosa carico. All'inizio deve essere carico. Carico. Allora partiamo con il primo pezzo, che è un po' una chicca, perché in realtà non è proprio così semplice da trovare in giro, ma noi ci siamo riusciti. È una ristampa in 7 pollici di un demo tape. Stiamo parlando degli anni 94-95, se non vado errato. È un gruppo veramente, veramente, che non ci sono aggettivi per definirlo, perché è stato un gruppo fondamentale. Forse è questa l'unica parola giusta, fondamentale. E loro sono gli Scum of Society e questa è Odio. E no, siccome non ci siamo molto coordinati, che è la traccia numero 1. Oh, Scum of Society, Do It Yourself Invasion in combutta con Swamp Radio. Questi erano gli Scum of Society. Latina città particolare, perché poi in questo deserto culturale che ci raccontavate sono usciti gruppi da paura che poi sono stati apprezzati a livello nazionale e anche perlomeno europeo, come gli Scum of Society. Ma io voglio ricordare, collegandomi agli Scum of Society, Alessio Sanniti, li abbiamo citato prima, il gruppo forse più tra i più importanti, insomma, del Doom Underground, sono i grandissimi Misanthropus. Conosciamo da queste parti, li passiamo sia in questa trasmissione che in altre, li amiamo, li conosciamo perché suonano nei posti che ci piacciono a noi. Proposte, insomma, di tutto rispetto, totalmente anticommerciali, Misanthropus. Lo spirito degli Scum of Society è rimasto in quello, l'attitudine punk e do it yourself. E no, mi vengono in mente altri gruppi come, vabbè, Itsubo per esempio, ma ce ne stanno tantissime, ma anche persone che sono partite dall'underground per poi fare altri percorsi che però pure loro li hanno portato ai propri frutti. E qui penso per esempio ai Senza Benza, che comunque sì, hanno fatto tutto il loro discorso da comunque gruppo tra virgolette commerciale, tra virgolette, che però parte, cioè, questi gruppi qui partono sempre tutti dalla stessa scena, cioè, sempre da lì. Tra l'altro, beh, non, però non detto, cioè non è detto che sia, allora i Senza Benza fanno, perché insomma stanno ricominciando fanno, a suonare, fanno, sì, sì, sì, sì, sì. E fanno insomma un punk più melodico, più con una vena vagamente pop, però proprio commerciale, insomma, no? No, vabbè, tra virgolette, sì, cioè, sì, sì. Parla, abbiamo sentito gli Scam Society, certo, cioè, beh, cioè certo, un abisso. Però comunque anche in loro rimane l'attitudine, perché poi le origini non si scordano, siamo tutti della palude quando si parla di musica underground. Beh, loro da Latina insomma sono arrivati, credo, a fare un tour con i Ramones. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. In Italia e se non sbaglio anche negli Stati Uniti. Quindi comunque si sta parlando di persone che, ripeto, l'attitudine è quello che accomuna tutti quanti. Cioè resistere, resistere, resistere, che prima o poi la nostra voce uscirà fuori dalla melma che ci ingloba a Latina, insomma. E allora Swamp Collective, questa volontà insomma di far uscire il suono ribelle della palude, sonorità autoprodotte, attitudine come avete ripetuto più volte, com'è il vostro approccio con la realtà circostante antagonista? Avete riuscito insomma a entrare in contatto, partendo voi da un discorso magari prettamente musicale, come che non prescinde poi l'attitudine politica, no? Esatto, insomma si parla sempre di, cioè non è solo musica, è controcultura. E sì, allora è una cosa che in realtà stiamo costruendo da un po' di tempo, cioè non è partita subito questo collegamento con tutte le realtà antagoniste, che poi alla fine non è che siamo così tanti, ma siamo forti, cioè ci facciamo sentire veramente. E a questo proposito, per esempio, cito la Compagnia del Librolto, che saluto tutti quanti, compagni e compagne, che loro veramente ci stiamo dando supporto a vicenda, noi li aiutiamo con le loro iniziative al Libero Orto, che è una bella cosa, cioè, no, non vi voglio dire niente perché secondo me al Libero Orto ci dovete andare. Ma lo vogliamo descrivere che cos'è, sì, il Libero Orto? È un orto liberato che in realtà è fatto all'interno di un parco pubblico, si chiama Parco San Marco, vicino all'ospedale, completamente lasciato al degrado, e che ci siamo riappropriati di questo spazio e se non erro, no, non vorrei sbagliarmi, questo sarà il quinto anno di vita del Libero Orto e siamo arrivati a 100 alberi, quindi 100 alberi che abbiamo piantato noi, che quindi abbiamo portato un po' questa vita all'interno di questo parco che sennò sarebbe rimasto al degrado. Però vi consiglio proprio di andarci, perché vedete un'altra faccia di Latina, cioè di una Latina che prende la zappa e resiste. Vabbè, territorio agricolo tra l'altro, no? Insomma, territorio, sì, Latina, sì, e dintorni. Molto agricolo, sì, certo. Sì. E stavamo il prossimo 17 ottobre c'è anche un'altra iniziativa, sì, Latina, no? Sì, sì, sì, infatti che invito tutti e tutte a partecipare. È il corteo internazionale contro il corteo nazionale contro il festival. Perché ci sarà insomma questo festival internazionale del circo che hanno scelto di fare a Latina. sono cascati proprio, hanno preso la città migliore per fare certo, quale miglior modo per dopo una scrematura accurata sì, hanno scelto Latina. Insomma, ci sarà questo festival internazionale del circo a Latina, però ci sarà il 17 questo corteo nazionale appunto per contro il Festival Internazionale per la Liberazione Umana e Animale, che però l'argomento del corteo in realtà non è solo questo. Dal nostro punto di vista di Collettivo Swamp è anche quello di non lasciare Latina a questa cultura tra virgolette degli spettacoli circensi, che non sono cultura, mentre dall'amministrazione comunale, le persone comuni viene denominato come cultura, e infatti noi portiamo un discorso completamente diverso, quindi invito veramente a tutti e tutte a venire. Un discorso diverso, perché è anche un discorso politico alla fine. Sì, certo, certamente. Non meramente. Vabbè, liberazione di tutto e tutti, sì. Qualsiasi sia la specie vivente. E vogliamo ricordare, non so se siete preparati insomma con qualche dettaglio in più per il corteo contro il Festival del Circo. Sto cercando un attimo al volo in rete se ci sono appuntamenti. Sì, comunque c'è l'evento Facebook corteo, se volete altre informazioni, corteo nazionale contro il Festival Internazionale del Circo. Ora non vorrei dire una fesseria, ma il concentramento sarà a Piazza del Popolo alle 4. Non voglio dire una fesseria, però. Quindi andate a vedere. Lo ripeteremo sicuramente da questi microfoni nel corso della programmazione. E abbiamo pronta un'altra traccia. Sì. Swamp Collective. Allora, abbiamo mandato il passato, mandiamo un po' di contemporaneo. Contemporaneo. Allora, questo è un pezzo che dedichiamo un po' a tutti quanti, perché diciamo è un gruppo che ci accomuna un po' tutti alla fine. Diciamo che è quasi una sintesi alla fine. Sì, è quasi una sintesi. È stato fatto veramente da musicisti di tutto rispetto, che sono nella scena da tantissimi anni. Quindi, bando alle ciance. Questi sono gli Elefante con Topo Ragno. Eccoli, pronti, pronti. Insomma, Elefante... No, ritornando al discorso di prima, i musicisti sono sempre quelli, le generazioni passano. Elefante con Massimiliano Bergo, appunto, dei Senza Benza. Poi c'è qui in questo brano proprio, che è tratto dal primo album, c'era Luciano Gux al basso, che saluto. Bella Luciano. Lui è quello che vive sopra la palude. Lui è perché abita a Sermoneta, che sono quei bellissimi comuni, e lui è alle origini della palude, dove ci sono i canali. Quindi lui è quello che controlla la palude. Ma è agropunk Luciano? È agropunk, sì. È agropunks, anzi, direi. E poi qui c'è Manuel Ponzani, che è l'attuale chitarrista. È al basso. Adesso salutiamo, perché è un nostro amico, Massi. Manuel Ponzani al basso, suona anche il basso in un altro gruppo? E chi lo sappia, no. Però chissà, darsi, potrebbe. Manuel, aggiornaci su queste. Ma vabbè, insomma, un delirio mio, non ci fate caso. E insomma, Swamp Collective, che non si rinchiudono solo nelle camere dette a fare trasmissioni radio con le loro cose, ma escono anche nella città di Latina con cosa avete fatto, insomma, per le strade di Latina? Allora, le jam session cittadine. Sì, sono state innanzitutto diciamo proprio il nucleo iniziale del collettivo Swamp, proprio il concetto per cui è nato il collettivo, era l'appropriazione degli spazi pubblici attraverso la musica. Quindi davamo una punta in un posto centrale della città. È successo diverse volte ai giardinetti pubblici, vicino a Piazza del Popolo, e invitavamo tutti e tutte, musicisti e musiciste, con qualsiasi strumento, e stavamo lì e suonavamo. Ed è proprio per riportare la musica in strada, perché poi, cioè, nelle strade di Latina serve questa cosa qui, perché un po' di vita, un po' di brio, dai, un po' di brio. Sì. Come è stata la risposta della cittadinanza di Latina? Allora, è stata da una parte, come al solito. Chi sono questi pazzi? Esatto, questi pazzi che si mettono qui, magari gli dobbiamo dare anche qualche spicciolo, cose del genere, cioè un po' di distaccamento. Dall'altra parte invece molti ragazzi e ragazze, poi della nostra età, anche di anni un po' più grandi, si sono avvicinati proprio con queste jam session. E tra l'altro abbiamo saputo qualche tempo fa che perché poi abbiamo smesso per diversi impicci, non riusciamo più a trovare un momento per rifare queste cose, ma le rifaremo. Abbiamo scoperto che ci sono dei ragazzi che si ritrovano ancora in Piazza del Popolo e ogni tanto si mettono a suonare. Quindi diciamo che un po' si è creata una coscienza, sì, mettiamola così. Il seme è stato piantato. Sì, è piantato. Vabbè, no, il senso è quello, cioè. Sì, è il senso quando non c'è niente, non ti lamentare, falle le cose. Esatto. Non delegare, partecipa. E passiamo un altro brano? Sì, passiamo all'altro brano. Torniamo al passato. Passato. Abbiamo parlato, poi noi facciamo queste cose anche durante la radio, quindi è un assaggio di Radio Swamp in questo momento. Allora, abbiamo parlato prima del Camarillo Brillo, lo spazio antagonista ad Aprilia, quindi ora. Cosa migliore dei Monkeys Factory? Ebbè. Monkeys Factory, questa è sempre Radio Swamp, oppure Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, chissà. Tutti in fine, tutti in fine. Insomma, Monkey's Factory, Bomb Machine e Godzilla, c'è sempre lo zampino. Un solo personaggio. Un solo personaggio. E no, vabbè, un ringraziamento da questi microfoni. Grazie ad Andrea, insomma, è stato un sacco caruccio che ci ha dato in sottoscrizione per il banchetto della radio un bel po' di CD dei Bomb Machine. Quindi alle prossime iniziative, se non avete ancora un CD dei Bomb Machine, potete acquistarlo al banchetto della radio. E quindi grazie del supporto e niente. No, dicevi appunto, hai intervistato anche Andrea? Sì, perché poi parliamo anche di questo, è un progetto ancora molto work in progress che stiamo facendo, cioè quello di andare proprio a raccontare quegli anni tra 81 e 97 di quella scena lì, di cosa ha vissuto, non solo del Nord Pontino, cioè Aprilia, Latina, ma anche il Sud Pontino, Formia, Gaeta, che comunque ha vissuto scena. E quindi sì, sono andato proprio da Andrea, che saluto veramente, grazie di tutto quello che mi ha dato, tutte le informazioni, le cose, perché è stato veramente utile, come ringrazio tutti gli altri che ho intervistato e che mi hanno dato supporto su questo progetto. E che dire, siamo quasi in termine di trasmissione, mancano pochi minuti. Vogliamo raccontare che cosa succede per i 3 anni dello Swamp Collective? Il 10 ottobre, 3 anni, tantissimi, e ci sarà un evento, come tutti gli eventi questo sabato, tra 2 giorni, e come tutti gli eventi che facciamo di autofinanziamento alle attività del collettivo. Al Sottoscala 9 a Latina festeggeremo i 3 anni con Placcaggio, Vibratacore da Teramo, Blood 77 da Formia. Hai capito? E Orange Juice da Latina, che siamo noi. Va bene. Allora, ma ce l'abbiamo un pezzo di Orange Juice? No. Già c'è la radio, insomma. Basta. Ci facciamo troppa autopubblicità. Già che siamo noi, il capito del gruppo è... Certo, troppo. Va bene, no, mi fa piacere, insomma, che parteciperanno a gruppi della provincia, come Placcaggio, a supporto di Latina e dintorni. Blood 77 di Formia, un altro gruppone. No, vedo una linea di collegamento, insomma, tra... Sì, è sempre questa cosa. Tra la provincia. È un cerchio che si chiude. Poi tra noi, magari, che siamo arrivati adesso a suonare, e loro che sono da parecchio, quindi sempre il filo che collega tutto. Il filo del disagio. Bello. Va bene, ci abbiamo un'altra traccia a chiusura. Sì, ne abbiamo parlato. Allora, come scritto nella fanzine 1997 Fuga da Latina, California Uberalles, loro sono i Blood 77 con We Are Vintage. Eccoli, Blood 77. We'll be right back. scusate la pausa, insomma, abbiamo ricevuto una telefonata e salutiamo la cantante degli Attrito di Latina, che qui, insomma, gli manca allo Swamp Collective, però ci siamo ripromessi per telefono che verrà a conoscervi alla vostra iniziativa questo sabato, quindi insomma, come e siamo veramente insomma beccamose, questa sì. È quella sostanza, sì. È certo, sì, noi siamo contentissimi, siamo lì quando vuoi. Benissimo. Allora, ore 22, andiamo a chiudere la trasmissione di questa sera con lo Swamp Collective, mentre saltano i cursori. Vabbè. E siamo giunti ai saluti, volete? Sì. Sì. Beh, allora, Marco, tu che dovevi essere qui con noi, ma domani devi andare a scuola, ti salutiamo da Radio Onda Rossa. Come mamma vuole. Salutiamo anche Andrea Suscio in arte. Per tutto il supporto e l'aiuto che ci dà. E poi le grafiche, non dimentichiamo il ringraziamento per le grafiche che e il computer per la radio e tutto quanto. E poi grazie Fantasma che ci hai dato l'opportunità e lo spazio. Grazie a voi di essere venuti. Se posso dire una cosa, noi abbiamo ancora le scarpe sporche di Melma. Benissimo. Il nostro motto. Benissimo, e questa trasmissione rimarrà sporca della melma, degli acquitrini e della palude. Siamo molto felici. Va bene, no, grazie ancora veramente di aver contribuito alla trasmissione, di aver fatto sentire la vostra voce anche nell'etere romano. E a prestissimo, mi raccomando, continuate. E certo, resistiamo sempre. Dai, e bella Swamp Collective. Ciao. Noi ricordiamo, prima di chiudere, un paio di appuntamenti. Questo venerdì 9 ottobre all'Ateneo Squat. Un bel concertino con cancer Spreading. Stenchcore da Modena. I Rattenkönig. Chi sono i Rattenkönig? No, venitevi a vedere all'Ateneo Squat i Rattenkönig. Insomma, nuovo progetto di Andrea Cresta. Con il 75% dei membri dei Destroy Your System. Quindi venitevi a vedere. Gli Infamia, sempre da Modena. E i Crust Master da Newcastle, Regno Unito, gli El Crusher. Quindi in quel del Dragoncello Ateneo Squat, via Fattiboni numero 1. Questo venerdì, mentre sabato, se non andate a Latina, perché dovete andare a Latina a sostenere lo Swamp Collective, se vi fanno male i piedini potete andare all'info shop La Talpa, al quarticciolo di Ostuni Novi. Ci sarà la proiezione dell'Italian Punk Hardcore. Ne abbiamo sentito parlare molto bene di questo documentario film. Cerca, insomma, di raccontare la storia del punk hardcore italiano dal 1980 al 1989. Quindi ci sarà anche una mostra sul punk anarchico a Roma. Storie, racconti e presentazioni dalle ore 19. Poi a seguire la proiezione del film dalle ore 22. Cena, birreria, insomma, ingresso libero. Noi vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento al prossimo giovedì. Vi anticipiamo che andiamo a presentare il Go Fest. Avremo ospite in trasmissione, scusateci. Pompeo dei Kate Mosh, che ci andrà appunto a presentare tutta la programmazione del GoFest. Quindi l'appuntamento a giovedì prossimo dalle ore 21 alle ore 22, Do It Yourself Invasion. Scriveteci fantasma@ondarossa.info. Noi vi lasciamo alla programmazione del giovedì sera con Apostasia. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della loro libertà personale. Quindi per ora vi lasciamo all'automatico di Radio Onda Rossa. A giovedì prossimo, dai! Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.